Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Vento, sabbia, sale, fango, olio, benzina, motori, lungo più di 9.000 chilometri. Ma la Dakar, il rally più famoso e anche famigerato per il suo triste tributo di sangue del mondo, oltre che sfida, gara, duello, corsa e anche e soprattutto ricerca di se stessi, dialogo con se stessi, sfida con se stessi, oltre i propri limiti e le proprie possibilità, i propri sogni e i propri incubi. Si partirà quest'anno da Buenos Aires il 2 gennaio per arrivare a Rosario, sempre in Argentina, il 16, dopo aver attraversato anche le Ande e la Bolivia. E allora, per raccontare sensazioni ed emozioni alla vigilia di questa grande avventura, gli dei dell'Olimpo e dello sport ci chiedono di ascoltare la voce di un debuttante e di un grande veterano alla Dakar. Nella categoria moto sarà al via per la prima volta Jacopo Cerutti, 26 anni, campione europeo enduro nel 2014. Jacopo, benvenuto ad Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie mille. Allora, Jacopo, esordio alla Dakar, direi che anche per un pilota ad altissimo livello come te, questo nome fa tremare un po' il sangue nelle vene, no? Sì, è il primo anno che corro, diciamo che non è facile subito, è una gara molto di esperienza, quindi non è facile ottenere subito dei bei risultati all'esordio. Con che spirito ti avvicini a quello che è il rally per antonomasia? Magari non perché è il più difficile tecnicamente, o forse anche perché lo è, ma sicuramente per la sua fama. Sì, sicuramente, oltre che tecnicamente, anche fisicamente è il rally più duro che esista. E per questo mi sono imposto insieme al team di finirla, quindi come primo obiettivo è finire la gara. Poi so che comunque ho un buon passo, quindi tutto quello che viene in seguito è ben accetto, però l'obiettivo primario è usare la testa e cercare di portarla in fondo, ecco. Questo è sicuramente il goal della mia gara. Ecco, si può affrontare una Dakar all'insegna della, tra virgolette, prudenza, se poi per voi piloti esiste, insomma? Beh, non è facile, però è l'unico modo per portare a termine una gara del genere. Usare un po' di prudenza, comunque i rischi si prendono in ogni caso, perché non prendere rischi è impossibile, però tra un pizzico di fortuna e la prudenza che ognuno cerca di utilizzare è un po' la chiave per riuscire a arrivare alla fine, ecco, portare la moto all'ultima giornata. Ecco, dal punto di vista tecnico, che edizione vi aspetta nel 2016 tra Argentina e Bolivia? Quali sono i punti caldi del percorso e le difficoltà che ti aspetti? Sicuramente sarà un'edizione dura, anche a vedere dai dati delle tappe che ci sono arrivati. E le maggiori difficoltà saranno in Argentina, sarà il caldo e le temperature davvero elevate in mezzo alle dune, soprattutto la seconda settimana, quindi al ritorno verso Rosario. E invece in Bolivia l'avversario principale è l'altitudine, perché faremo anche una tappa di 400 km a altitudine media sui 3500 metri, quindi penso che queste siano le chiavi. Poi i passaggi di quota, i cambi di quota, i cambi di temperatura repentini saranno, insomma, un bel ostacolo per tutti. Cominciamo a parlare del mezzo. Come si prepara una moto per una sfida pressoché impossibile come una Dakar? Beh, sono dei mezzi comunque totalmente diversi dalle moto tradizionali, nel senso che sono moto apposta, che si possono anche comprare. Almeno la mia moto è una moto, uno Husqvarna, che si può vendibile anche al pubblico, però sono moto che devono durare 10.000 km con tanta potenza, perché comunque le velocità massime sono sui 170 all'ora, quindi sono motori e moto pazzesche, progettate per quello, stabili, maneggevoli, perché hanno comunque molta benzina ma a baricentro molto basso, quindi sono anche molto belle da guidare, diciamo efficaci come durata, perché 9.000 km sono tanti per tutti, soprattutto per i motori. Dal punto di vista fisico, stai lavorando in modo particolare, con accorgimenti particolari, alimentazione particolare, come ti stai preparando? Sì, diciamo che per forza mi sono dovuto adeguare a questa differente gara, questa edizione particolarmente dura, allenandomi, cercando di allenarmi un po' di più in quota, anche se con gli impegni vari non sono riuscito a restare alcune settimane in quota, quindi è stato più che altro un test per vedere come avrei reagito in altitudine. E poi sempre solito, quote elevate, tante ore di bicicletta, mangiare bene ma tanto, perché è meglio partire leggermente sovrappeso piuttosto che sottopeso alla Dakar, e questa è un po' la chiave di quello che ho fatto in questi mesi, ecco. Ecco, in una tappa già sai quante calorie andrei a consumare? Ma all'incirca io penso sulle 5.000, non di meno. Ecco, ma tra l'altro la Dakar di oggi è come quella di un tempo che pure si svolgeva in Africa, dove, che ne so, vi capita un piccolo guasto meccanico, dovete metterci voi le mani o ci avete un supporto? Come funziona? Sì, noi abbiamo un supporto, nel senso un'assistenza che vediamo solamente, la lasciamo la mattina al bivacco e la rivediamo la sera al bivacco, quindi tutto quello che succede nel periodo in mezzo, durante tutta la tappa, è comunque a carico nostro, sono accorgimenti, sono tutte riparazioni a cui deve pensare il pilota. Quindi senti, c'è anche un aspetto prettamente tecnico nella preparazione, che ne so, dedichi un'ora al giorno anche a smontare e rimontare carburatori? Sì, diciamo che comunque una base meccanica ci vuole, io fortunatamente mi sono sempre sistemato le moto d'allenamento, quindi ho una buona base meccanica, e poi sì, ho dovuto studiarmi qualche accorgimento in più specialmente per la moto da rally, per le sue caratteristiche, quindi c'è stato un po' di lavoro in più, ecco, per essere tranquilli quantomeno nelle rotture tipiche, ecco. Poi la sfortuna può sempre capitare. Tu all'esordio, ma l'Italia ha una grande tradizione alla Dakar, proprio forse soprattutto nelle due ruote. Da questo punto di vista, quali sono i piloti a cui ti ispiri? Sì, sicuramente negli ultimi anni comunque ce ne sono stati gli italiani forti. Adesso ultimamente, proprio le ultime edizioni, l'italiano più forte che c'è rappresentante è Botturi, che è anche uno dei favoriti comunque al podio in questa edizione. E siamo amici, quindi lui è un po' stato la mia ispirazione a livello proprio di organizzazione della gara, diciamo che mi ha dato qualche consiglio personale che mi ha fatto molto comodo, tra un po' di preparazione, un po' su come arrivare alla gara preparati. Lui è quello, diciamo, che punta più in alto di noi italiani, e la persona a cui mi sono un po' ispirato per questa prima edizione. Invece tra gli stranieri, che gara ti aspetti? Chi sceglierai come battistrada? Perché poi immagino che da esordiente ti metterai magari sulle orme di qualcuno un po' più esperto. Ma sì, diciamo che comunque c'è tanti quest'anno, sarà secondo me una gara combattutissima, perché sono tanti piloti che possono vincerla, e non ci sono né Marcoma né Cyril Defré, che sono stati i due mattatori degli ultimi 10 anni, quindi dopo 10 anni avremo finalmente un vincitore diverso. E gli stranieri stanno andando molto forte, da Wolkner a Barreda, a Goncalves, ci sono tantissimi pretendenti alla vittoria. Io cercherò di fare la mia gara, però se mai riuscirò a essere dietro a qualcuno di loro, sicuramente cercherò di capire un po', di sfruttare la situazione, diciamo di imparare da loro, ecco, avendoceli davanti si può imparare molte cose. Delle origini africane di questo rally famoso e famigerato, no? Perché poi tanti sono stati anche gli incidenti drammatici, rimane ora il nome, no? Perché Dakar è un marchio inconfondibile, ma ti aspetti una corsa ormai totalmente sudamericanizzata, oppure lo spirito africano della Dakar in qualche modo sopravvive con il rally stesso? No, comunque penso che la Dakar sia sempre la gara di moto più dura al mondo, anzi ne sono sicuro, quindi comunque parte di quella durezza e spettacolarità che aveva l'edizione africana resta. E certamente sarà un'edizione un po' diversa, ma soprattutto come paesaggi, perché i chilometri saranno comunque tanti, ci saranno zone desertiche, dune, quindi non è cambiato così tanto, sono cambiate le velocità delle moto che si sono abbassate per fortuna col limite di 4,50 cm3, e spero che sia un'edizione abbastanza navigata, diciamo difficile, così potrò subito capire un po' come la navigazione della Dakar e magari dire la mia, dato che nelle gare più navigate sono riuscito quest'anno a dare il massimo di me. Nello zaino che ti porti verso Buenos Aires e poi Rosario c'è anche spazio per la paura, e se sì, di che tipo? Ma sì, più che altro un po' di ansia per quello che non so che mi attenderà, diciamo, non sono mai stato in una gara così lunga, altitudini così elevate, temperature molto elevate, un po' quello che non conosco, che mi spaventa, però è normale partire con la paura, sarebbe da folli non aver paura, e sicuramente chi non ha paura alla Dakar non torna a casa, secondo me, quindi aver paura è anche un buon segno di presa coscienza di quello che si va a fare. E allora, Jacopo Cerutti, un grande in bocca al lupo per questa straordinaria avventura e questa incredibile gara che ti aspetta, e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Crepi il lupo, grazie a tutti voi, poi ci aggiorneremo a Dakar finita. Ora una breve pausa, poi torniamo insieme qui ad Olimpia, ancora sulle strade della Dakar. Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora sulle strade della Dakar 2016 qui ad Olimpia, ormai manca davvero poco alla nuova edizione che prenderà il via il 2 gennaio da Buenos Aires. E allora, dopo aver sentito l'attesa di un esordiente alla Dakar come Jacopo Cerutti, sentiamo invece come si sta preparando alla nuova avventura un campione dei nostri motori, che di Dakar ne ha un bel po' nel palmarès, fidatevi. Franco Picco, benvenuto ad Olimpia, la città dello sport. Sì, salve a tutti. Allora Franco, aiutaci a fare un po' di conti. Quella che sta per partire per te è la Dakar numero? Numero 24. Però, insomma. 24 nel totale, fra corse in moto, corse in macchina e corse, diciamo, fatto assistenza col camion per dei clienti, diciamo, quindi 24 in totale. Tra l'altro, questa qui la farai su un mezzo ancora nuovo, no? Esatto, sempre per aumentare quello che può essere le novità o le cose, questa è la prossima, la faccio con un quad. Ecco, ma insomma è una Dakar che si apre un po' a tutte le categorie a questo punto, perché i quad, se non sbaglio, è una novità recentissima. Ma sì, forse potrei dire che all'inizio della Dakar, almeno mi ricordo, c'erano i sidecar, che piano piano sono spariti. Sono cominciati a nascere appunto invece i quad, e diciamo qui in Europa ce ne sono sempre stati pochi, non è stato ben preso, ma invece in Sud America, infatti il quad, da quello che si capisce, il mercato americano, anche America del Nord, è nettamente alla grande. America del Sud, idem, che copia, diciamo, l'America del Nord. L'occasione della gara, che è in Sud America, effettivamente anno per anno è la categoria in aumento come numero, e anzi c'è un numero limitato per una logistica, e ci sono stati molti, diciamo, non accettati perché per esuberanza di richieste. Insomma, quindi una Dakar che guarda anche al futuro. E ecco, tu che hai conosciuto anche la Dakar africana, che te ne pare di questa sudamericana? La gara viene fatta in base anche a com'è il luogo, quindi la gara è sicuramente nata, quindi l'avventura africana per il deserto, il Teneré, infatti dai vari nomi, era perché è nata lì ed ha sicuramente fatto notizia, ha fatto la sua bella avventura e tutto. A un certo punto, ed è stato il 2008 famoso, è stata annullata la tappa per via di un attentato in Mauritania, la gara è stata annullata perché sono cominciati dei momenti un po' difficili, già certi paesi non si potevano più superare per via delle lotte interne, i Tuareg, per esempio del Niger, altre zone, la Libia, l'Algeria. E quindi la gara le ultime volte in Africa costeggiava, partendo dalla Spagna o Portogallo, costeggiava Marocco, Mauritania, Senegal, e per problemi diciamo appunto politici di certi paesi. Da lì che per fare in fretta e in furia modificare, dare subito un nuovo percorso a quella gara annullata nel 2008, il 2009 è stata scelta l'Argentina. In Argentina, secondo me, fra Argentina e tutti i paesi attorno hanno trovato, come si può dire, hanno dato spazio a questa gara con addirittura un tifo, diciamo dalla popolazione, ma anche quindi i paesi superati, come si può dire, dove passa la gara, da dire che governi fra Argentina, Cile, quindi Perù, Bolivia quest'anno, sono dei paesi che chiedono alle organizzazioni venite di qua che ci interessa, che è pubblicità e tutto, e quindi la gara adesso è là. Da lì i percorsi sono diversi, tornando sulla domanda iniziale, in Africa ci voleva e si viaggiava solo con la bussola e andava benissimo riuscire a superare il deserto del Teneré. Con gli strumenti di adesso il Teneré diventerebbe quasi troppo facile. Adesso la difficoltà è passare quelle zone che non sono estensissime di deserto, ma sono deserti che là, ma in mezzo alle montagne, alle Ande. Mm-hmm. Quindi altre difficoltà, ma con la strumentazione che c'è adesso è quasi necessario, se no con gli strumenti, i GPS, quelle cose, diventerebbe quasi troppo semplice fare il Teneré. Dove si fa adesso la gara, in Argentina per esempio, sulle Ande, tipo il Perù, Bolivia adesso, se non leggi il roadbook, se sbagli un incrocio, ti trovi che il GPS ti dà pochissima differenza, ma potresti trovarti dentro una valle piuttosto che in cima alla cresta di una montagna che è insuperabile, magari con pochissima differenza a livello di distanza di GPS. Che cosa ti manca invece della Dakar originale, di quella dell'Africa? Cosa rimpiangi che oggi non ritrovi? No, nella semplicità, non semplicità della gara all'inizio, è logico che era più una cosa da un'avventura, da dover confrontarsi con degli altri, per esempio per trovare la soluzione, cioè era per esempio, per dirti, un confronto fra colleghi per trovare la soluzione. Adesso ognuno va per i conti propri e diventa una sfida un attimino, cioè per dirti, una speciale in Africa si giocava con delle mezz'ore, delle ore di distacco da uno all'altro, adesso i distacchi sono diminuiti e quindi non è che ci sia questa tempistica di fermarsi e aspettare, ma si voglia molto più veloci, è una gara un po' più veloce, però di navigazione tutto c'è sempre. Hai notato una evoluzione, una sorta di rallista Dakar 2.0 rispetto ai tuoi tempi, oppure alcune caratteristiche rimangono invariate? Ok, l'evoluzione dei mezzi, l'evoluzione dei posti, per esempio adesso cominciano a esserci i soliti francesi o spagnoli in moto, adesso portoghesi cominciano, sono ancora diciamo forse quelli di stampo vecchio e si giocano il risultato nella categoria moto, forse anche perché i team ufficiali, quindi fra KTM, Honda, Yamaha, hanno ancora piloti del vecchio continente diciamo in squadra. Sulla categoria per esempio quad invece, che non ha la partecipazione ufficiale di case, ci sono più partecipanti diciamo privati, c'è più l'affluenza di corridori sudamericani. Lì vabbè, è un po' una scelta, no? Una scelta, un risultato in base alla presenza, perché questo mondo quad non è che sia ancora tanto conosciuto o magari richiesto su un mercato internazionale, perché è più locale. Sul discorso moto invece la battaglia fra KTM, Honda e Yamaha, sicuramente la composizione delle squadre ha ancora piloti europei per la maggior parte. Comunque cominciano a esserci qualche cileno, argentino, via, sono inclusi per via diciamo chiaramente del mercato nazionale, però la maggior parte è europea. Con quale spirito parti verso questa nuova Dakar e cosa ti aspetti? Le difficoltà sono sempre le stesse, però una delle difficoltà maggiori di cui cerco di utilizzare è quello dell'esperienza, quello della navigazione piuttosto che della velocità, nel senso ho compiuto 60 anni due mesi fa, non posso pretendere di essere là arzillo come 30 anni fa, quindi lo so chiaramente, però so abbastanza, sono certo che questa gara bisogna sfruttare l'esperienza o la parte per esempio meccanica più che tecnica sui mezzo, nel senso riuscire a togliersi da delle situazioni meccaniche, e lì sono abbastanza sicuro di potermela cavare. Cioè, è classico di qualche pilota magari che ha un problema meccanico, non riesce a darne fuori perché non se ne intende e sa solo smanettare alla grande, ecco, quindi cerco di sfruttare quello che so piuttosto che la velocità diciamo di guida. L'unico problema che mi troverò sicuramente è che andando più piano metto più ore di guida, come dire, se con la moto o comunque a certi livelli ci si mette 5-6 ore di guida giornaliere, io dovrò mettercene 7-8 magari di più, e quindi vabbè, me la prendo con quello spirito di avere più resistenza. Mi porterò via una barretta da mangiare di più piuttosto da bere un po' di più piuttosto che cercare di andare veloci e magari incorrere in anche sforzo fisico non indifferente. Ecco, questa è un po' la mia tattica. E allora Franco Picco, lasciati chiamare signor Dakar, un grande in bocca al lupo e grazie per essere stato oggi nostro ospite qui a Olimpia, la città dello sport. Crepi, ci sentiamo alla fine, speriamo di festeggiare qualche risultato, insomma. Grazie. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.